Ma come si chiama quell'altro lì che ha preso il premio quest'anno della canzone? Quello della banca di Noè. Andrigo, no, no. No, Andrigo, quell'altro. Celentano. Ah, Celentano. Oh, mamma. Ho detto, ma no, sì. Ah, dico, allora te lo canto io. Te lo canto io. Lì, eravamo alla marina, no, per andare a mangiare. Le devo cantare, sì. Addio Lugano bella, oh dolce terapia, scacciati senza colpa gli anarchici van via e partano cantando con la speranza in cuore, e partano cantando con la speranza in cuore, ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo ammanettati a par dei malfattori. Eppur la nostra idea non è che idea d'amore, eppur la nostra idea non è che idea d'amore. Anonimi compagni, amici che restate, le verità sociali da forti propagate, e questa la vendetta che noi vi domandiamo, e questa la vendetta che noi vi domandiamo. Banditi senza tregua, andrete in terra a predicare la pace ed abborrire la guerra. La pace dagli oppressi, la guerra agli oppressi. La pace dagli oppressi, la guerra agli oppressi. Ma tu che ci discacci con una vil menzogna, Repubblica borghese, un dì n'avrai vergogna, ed oggi t'appoggiamo in faccia all'avvenir, ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir. Sveglia il tuo governo, schiavo d'altrui si rende, di un popolo gagliardo la tradizione si offende, de insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell, de insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di nevi, montagne di cinesi, e i cavalieri erranti son trascinati a noi, e i cavalieri erranti son trascinati a noi. Ma chi ci arriva? Ah, lo facevate così con questo finale. E quando si poteva. Quella canzone che dice figli di nessuno. No. E io ti dico, uno di quei canzonieri lì, ora tutti non l'hanno mica raggruppate, no? E allora ce n'è che io mi sono passato soltanto. Ecco, ma in Spagna, come le colonne anarchiche? In Spagna ce ne sono degli indi. Ah, sì, Ma io mi è rimasto impresso uno che sono stato all'ospedale 4 mesi lì. Tutti i giorni me lo cantavano sotto l'ospedale. Veniva lì uno col piano, sa? Ah, col piano. E allora cantavano lì. E cos'era quello lì? Figlio del... Ico del pueblo. Figlio del popolo, no? Allora il motivo è così. Io del pueblo ti ho prima cadena, in esa ingiustizia non pole seguir. Se tu esistenza è mondo de pena, ante che sclavo prefiero morir, prefiero morir nella battaglia alla iena fascista, per nostro sforzo soccombirà. Il popolo intero con l'anarchista. L'anarchista, la libertà, trabaccato, non mas soffrì, e l'oppresso ad assucumbir. Leventate, popolo lea, al grido di rivoluzione sociale. Forza e unità di federazione producirà la rivoluzione. Nostro pendon, la bandiera, nostro è da sé, solo l'unione stal vencerà. Le parole. E poi lo cenando, la pistolina. Ma... sa, da quell'epoca avevamo altre buche preoccupazioni. Io avevo modestamente, vedo chiaro, modestamente. Io su. Ora non voglio mica dire che ero solo, ma io non fa quelli. Era Barcellona? Sì. Allora, tanto è vero, quando siamo arrivati di là noi, non volevamo andare, diciamo, alla Salfone. Dopo c'è la seconda rivoluzione, voi siete già sperimentati, conoscete il fascismo italiano. Siete necessari, no. Io sono venuto per andare a fare fuggirare, del resto stavo a Nizza. E beh, insomma, allora trovai Rosselli, Meschi, trovai Angeloni, insomma erano già lì. Berneri. Neri lo conoscevo anche bene, insomma, e lo conoscevo da Nizza, no? Verneri lo conoscevo da quando, perché Verneri aveva qualche anno meno che me. Allora, ti dico come l'ho conosciuto. Allora, quando è venuto in Francia, io mangiavo in un bar lì, e mi diceva: "Vous savez, Raffaelli? Vostri amici sono papoli, non sono educati, no?" Ah, dice, "I vieni sì? Ne parla Raffaelli?" I francesi, "Pardon madame, bonsoir madame, pardon, ne te pari bene, monsieur Raffaelli", insomma qui, insomma, tutte quelle, i francesi, la lingua francese, quella lì, insomma. Allora lui dice: "C'è Raffaelli?" La sera vado a casa. "Oh, monsieur Raffaelli, se venuto ici un vostro amico a vous chercher, ma Trepoli, ma usci, il vive pas avec les autres là, c'è Raffaelli?" A dire, beh, ciao, a dice, insomma, aveva l'aria di un collegiale, insomma, da fare così, no? Io, beh, che poi? Allora, dico, che si la di? A di, la di che se suar a supe i vensi. Insomma, a dico, direte solo di no, io sto in compagnia là, avec un altro, un napoliten, aveva l'aria napoletana, e non aveva sbagliato, era un romano. Sicché ero lì a mangiare. Allora, Allora, pardon, madame, il est arrivé, monsieur Raffaele lì, ha detto, oui, c'è là, il ha stupendo. Chi sei? Dice, sono Berneri. Dice, ma no, ma sarà 20 anni o 30 o 40 che ti leggo, un filosofo con la barba così lunga, ti immaginavo. E la signora mi ha detto che tu hai l'aria collegiale, ma avevi ragione. Stavo lì. Allora ogni tanto mi domandava, allora la sera dopo gli dico, signora, quelli mi dice, mica, c'è Raffaelli. Dico, sa cos'è? Dico, è un professore di filosofia e dottore di scienze sociali. Aveva le qualità anche per essere educato. Quando è morto a Barcellona tu c'eri? No, ne lo sapevo perché io sono stato. Ho fatto 3 mesi di fronte, sono arrivato là il 17 e il 18 d'agosto, io. Perché quando è scoppiato il movimento, quando si è visto un po' l'ampiezza, giornali comunisti, giornali socialisti, ma si capiva che il movimento era in grande, no? Poi quando ho letto la morte da Scaso, Scaso lo conoscevo, non personalmente, ma la sua vita la conoscevo molto bene, no? Allora gli ho detto a degli amici, sono andato alla donanza, facevo le donanze a Nizza, no? D'Antipo, lì, a quell'epoca abitavo Antipo io. Ho detto, andiamo alla donanza, eravamo d'Antipo, non eravamo tanti, ma eravamo una decina o 12 anche d'Antipo. Forse quindi c'era anche dei compagni francesi. Allora siamo andati a questa riunione e io mi ero fatto male a scaricare un camion di marmo, di latte, no? Uno sforzo così, perché io adesso ma ero anche forte quando avevo anche 40 anni. Allora di là c'era due operai e io col petto, tum! L'alzavo per spostarla, no? A fare questo sforzo, mi giro dietro, ma chi è? Come che mi è andata una bastonata in un polpaccio, mi era saltato fuori un muscolo, si vedeva, dallo sforzo, no? E dopo vado a questa riunione, ero ancora zoppo, no? Per questo muscolo. Di allora, chi è? Ho detto io. Penso che i fascisti mi piglieranno anche zoppo, io ci vado. E allora, insomma, si stabilì in la via di lì. E mandammo uno a Perpignano, subito i primi giorni, no? E andò là, c'era un comitato, dice, non è ancora, la strada non è ancora sgombra. Rinate a casa, vi facciamo un telegramma. Infatti, dopo una decina di giorni, ci arrivò il telegramma e partimmo, andammo a Porbucola e io dice, fate attenzione delle carte d'identità, non le consegnate perché non si sa mai come va, se si affermasse la rivoluzione si possono anche lagerare, ma non le consegnate alla bugia, infatti commissario, ragazzi, non l'abbiamo mica, l'abbiamo lasciata a casa, chi ci pensato lì? Che dice, dove andate? In Spagna, dice, a lasciarci la pelle, può darsi, può dentro. Insomma, passiamo di là. Allora, arriviamo lì, c'è delle povera gente che voglio dire, si impressiona dalle parole, come l'intestazione di giornale, dall'altra intestazione non corrisponde a quel che è sotto. E ce ne sono tanti, si impressiona, poi sotto non c'è quel che è nelle intestazioni. Allora uno mi diceva, un compagno di Chiusi, toscano, un bravo ragazzo, ma di Toscano, dice, ma almeno trovassimo sempre i compagni a posto, perché? Hai visto? Dice, i comunisti dice, su un giornale, non so, un giornale umoristico, un po' tendenza comunista, c'era che un anarchico abbracciava un prete. Ho detto, Dio cane, ma tu le bevi così, Dio cane? Ma quali libri hai letto, Dio cane? L'anarchico prima di tutto ha lo spirito critico delle cose. Beh, insomma. Allora, e per fortuna, per Ferraro Tesono, c'è un tunnel da Cerbera, l'ultima stazione francese, e a Porbu, sarà un chilometro, non so, una fare così, poco più come. Allora c'era uno spagnolo e dice, va accompagno io di là. Allora, questo si chiamava Danilo, questo qui. Andiamo là, quando sbuchiamo fuori, c'era come un castello, c'era una bandiera rossa e nera, era come due lenzuoli. Hai visto gli anarchici a braccetto ai preti? Fesso, Dio cane, e sei toscano, ma sei un fesso quattro volte. Allora vado là, ci ho invitato. Dice, cosa volete fare? Andare a combattere. Dice, ma tessere del Camera del ma non mi aiuto del destra. Non occorre la destra. La destra è qui. È qui. Del resto non eravamo nemmeno qui. E vabbè, insomma, così. E dice, quando volete partire? Quanto prima? Allora dice, c'è il treno domattina alle 4. E vabbè. E dice, dove volete andare? Alla FAI. Alla Federazione Anarchista e Berico. Parlavamo un po' che francese. Allora vabbè. E dice, questo è da qui, la montiamo e andiamo lì. Ora, di lì andà là, non c'era che bandiere rosse e nere. Ogni tanto, ma era raro, no? Ogni tanto qualche bandiera rossa, ma tutte bandiere rosse e nere. Qualcuna nera di tutto. Allora, gli dico a questo la guida, no? Noi vogliamo andare alla FAI. Dice, sì. Andiamo là. Il treno ci avrà messo, non so, dalle 4, saremmo arrivati alle 8 a Barcellona. E da tutte le parti, non c'era che fai, le caserme. Questo qui va via, questa guida, ed è stato un bolscevico, viene verso mezzogiorno, dice, ma io non ho mica trovato la fai. Porca madonna. Ho detto, ma se tutta fai, così. Ma dico, quella caserma lì, quell'altra. Allora c'è uno spagnolo, sente, no? In francese, no? E dice, cosa c'è? E dico, quel fessometro lì. Quel fessometro lì ci fa da guida. E noi gli abbiamo detto, a Porvù che vogliamo andare alla FAI, alla Federazione Anarchica Iberica. Ha detto che ha girato dalle 8 fino adesso con una trovata. E se ci andavo io l'avevo trovato, perché lì c'è la FAI, insomma, là dice, venite con me. Dice, quanto sei? Abbiamo 7-8. Ti montate su. Sta su. Gli faccio vedere dove abbiamo fatto le fucilate e alle cannonate. Poi scende giù, no, al porto, a, come si chiamano, al monumento di Colombo, dove c'era una gran barricata lì, in pavè. No, dice, di qui abbiamo spugnato quella caserma là, dove è morto Ascaso, Francisco Ascaso, no? Che quando quella caserma, era la caserma d'ufficiale, non mi ricordo nemmeno come si chiamava, Zanare, il nome così, ma il nome me la... E lui disse, a chi la fai? Quegli altri non ce ne vogliamo, no? E andò sotto, invece gli spararono e morì lì, ma la caserma la spugnarono lo stesso, no? Allora ci ha fatto vedere lì, ci ha fatto girare, no? Poi ci portò alla caserma, là dove c'era le formazioni della milizia. Là trovai Meschi, trovai Berneri, Rosselli. E dico, dice, noi andiamo via domani sera. E dice, ma voi altri per riposarvi? Dico, no, trovate un fucile, qualche cosa. E allora trovano un fucile con 40 cartucce. E il giorno dopo partimmo su, fece un bel viaggio, perché io ho letto un po' Dante, Ma delle discussioni, ma le fai il professore, non ho mai sentito, no? Sto sentendo commentare. E c'era un vagone. C'era Rosselli, c'era il professor Iacchia di Livorno, che era venuto via, era stato fascista come rimorso per affrancarci dal peccato che aveva commesso. Poi c'era un certo Monti, giornalista svizzero, no? Insomma, c'era tre o quattro. Era a parlare di Dante, a commentarlo, no? Qui ha detto così, ha detto bianca come il burro, ma c'è più bianco del burro. Insomma, loro lo commentavano. Dico, meno male, non ho mai sentito delle lezioni di Dante. Io vedendo in Spagna sento anche le lezioni dantesche lì. E allora lassù, a dire, insomma, io non ero mica solo. E ora una sera io, dato che faccio servizio a un pezzo, no? L'artiglieria lì. E il primo attacco che ci fu, io stiamo imbarazzati assai, no? Il 28 d'agosto. E restammo imbarazzati perché loro vennero con due tank, magari erano di, come si dice, sì, ma voglio dire, erano degli automobili rivestiti con delle lamiere, sì, così. E allora viene uno di Milano, no, un ragazzo, dice: ora fai, dice, fascista, ma colpiti i coglioni, ma fallo tutti i momenti, sei da lì, poi, no, vieni qui, vieni qui. Allora vado lì, gli vedi là, ogni tanto i fari, no? Diante la strada. Questa volta vengono sul serio. Allora, pronti, le cartucce non le sciupate, c'è un tono a tiro di eliminarli, via di seguito, le bombe, lo stesso, insomma, fare di quel genere. Allora, infatti, lasciano avvicinare queste blinde, c'era una mitragliatrice, erano tutti bolognesi. Chissà, o che lo facessero proprio perché lo volevano fare, o per caso, non lo so io, tirano sempre, la bucarono. E bucandola dentro ha ferito qualcuno, cioè, ha cominciato a ripiegare lì, passare lo stesso, insomma. Magari. E poi loro avevano due o tre batterie d'artiglieria, però sfioravano, loro tiravano piuttosto alle retrovie, che a noi veramente lì non ci cade mai un proiettile d'artiglieria dove eravamo lì. E allora dopo respinte, pensi che ho usato delle forze, si sarebbe avanzato, ma le forze non c'erano. Io, dato che facevo servizio a questo pezzo, mi dice: oh Raffaelli, sei di servizio stanotte, di ispezione. Dato che mi faccio montare, perché c'è il cannone, c'è da sparare, io dovevo parlare. Allora, di guarda non montavo, no? Mi tenevo a ispezionare le guardie. Allora dice: sei tu e Ricci, un bolognese. Allora dice: tu l'avverti. Allora vado là: oh Ricci, sei di ispezione. Quando monti, quando vuoi montare, dalle 8 a mezzanotte o da mezzanotte a giorno? Devi stare a sentire Raffaelli, mi pare che tu sia un po' un chiacchierone. Montiamo tutti e due assieme. Dice, così si chiacchiera un po'. E vabbè, allora si monta assieme. Allora, e come la vedi? Ti dico una cosa come la vedo davvero. Sì. Se non ci mette le mani il proletariato internazionale, la guerra è persa. E siccome non ci credo che il proletariato internazionale ci mette il becco, perché è a guizzaglio di tutti gli esponenti mandarini sindacali e ministri socialisti e via di seguito, e quelli non lavoreranno mai per la rivoluzione sociale. Questa è la mia impressione. E non lo direi in pubblico, perché si farebbe dello scoraggiamento, vero? In pubblico non lo direi, ma però io la vedo così, perché con le armi che avevamo prima, le abbiamo anche adesso, l'armi non è più venuta, rinforzi, tutti i giorni si gira, e noi eravamo lì, qui, una bunda, qua c'era Huesca, c'era i fascisti. Qua c'era il fascista Roccasecca, qui c'era Mudevar, un paesotto, c'era il fascista. Se fanno un'infiltrazione giù, si pigliano alla Derga, eravamo un 120-130 lì, so. E loro, insomma, poveracci, io dico poveracci perché non avevano... E dico, mañana, insomma, questo mañana è venuto, non so, 10-12 camion, 15, non so, per rinforzi. Quando hanno ritirato le forze da Maiorca, che hanno dovuto ritirarle perché l'hanno accerchiato, insomma, si è salvato un po' di gente. Allora, quelli erano armati di fucili, e non sono venuti là sul deretto. Noi eravamo scoperti di qui, di lì e di là. Per dire la situazione militare com'era, loro non potevano dire cosa dicevano mañana, cosa potevano dire, insomma, siamo rimasti lì tutto questo tempo lì. E dopo io mi ero stancato di star lì, facevo un servizio a un cannone, c'era 100 proiettili, non si sparava mai, si doveva sparare il caso che passasse su una strada dei muli. E allora gli disse al comando, io ai cannoni muti non ci sto. Perché era venuto su una batteria da Barcellona, aveva, adesso non saprei precisare, ma poi, non so se aveva 1000 proiettili, non posso dire se l'aveva. Insomma, un po' di proiettili, da 75. E ci andava uno di lì, che era venuto dal Brasile, un bolognese. Come si chiama, adesso mi sfugge il nome, che è morto, non lì, dopo è andato a Madrid, è morto là, che occidente. Adesso non mi viene qui, insomma era uno venuto dal Brasile, lui era la sua compagna, la sua moglie, Battistelli, libero Battistelli, e la comandava lui. Dico Battistelli, vengo anch'io là, si andavano di presso Tuesca, no? Dico, questo cannone muto non ci sto io. E guarda, insomma, ho visto questi po' di proiettili. E sì che, allora, lo dico non per posa, lo dico, ma io un po' il mio parere l'ho sempre detto. E dico, oh Battistelli, la batteria non è mica passata bene, perché abbiamo passato in prima linea. È già individuata, perché la prima linea lo sanno già dove. E dico, beh, allora bisognerebbe spostarsi più indietro, saprei 100-150 metri, è lo stesso, no? Per il tiro si dirà 800 metri. Il bersaglio era un santuario, era 800 metri. Ora voglio dire, la questione del cannone, essere a 800 metri, o essere 1000, 1200. Dice, no, ma una questione, Dio, che s'avanza, se non s'avanza, se ci ritiriamo. Vabbè. E io ho sempre fatto il caricatore, numero 3. Ero contento quella mattina, dico, Dio, cane, non abbiamo avuto mai... Stamane abbiamo anche un po' di proiettili. Giù il caricatore, i proiettili, avevo... Lo mettevo dentro, poi... Boom. Era una, e non so, sarebbe stato 7, 8, 10, e poi sono caduto per terra, no? Esploso un proiettile lì, e sono ancora qui perché facevo il mio servizio, fare caricatore di stacchinati, no? E allora mi prese qua E non si conosco. C'ero dritto. Stavo lì. E tu mandai su. E sono ancora qui. E dopo rientrato, vedo che erano tutti contro la rivoluzione spagnola. Un episodio lì. Un giorno ero uscito. No, quando ho potuto mettermi, vestirmi, avevo un paio di vestiti. Mi sono fatto un sarto, un compagno era stato espulso, no? Era un sarto in gamba, era uscito su 500, non so, 30, l'undicesimo a Parigi. Era un tratto quando aveva fatto una giacca. E lavorava per la Generalità di Catalogna. Allora, appena che ho letto sul giornale, che sono stato ferito, è venuto a trovarmi, no? E io dopo così andavo là. E per tagliare la corta, per un sabato qualunque, quando sono venuto in convalescenza alla Federazione Anarchica, allora andato lì c'era anche c'era un ufficio dei miliziani italiani, e ho detto, avrei qualche soldo, se me lo cambiaste. Allora c'era uno che dopo l'ho ritrovato a Roma, non c'era più con noi, ferroviere, si chiamava Giusti, adesso è stato partito con i socialisti, non so, e ce n'è anche quando poi, che ne conosco, che sono andati col bolscevismo, col socialismo, via di seguito, delle persone anche che avevano una certa intelligenza, ora i poveri diavoli, i Capuncelli, che in letteratura, ma gli altri io insomma non mi sembra che sia logico. Ora arrivo lì, mi dice dove vai? Dico io abito a Nizza, vado a Nizza. Io giustamente va proprio bene, perché c'è questo compagno qui, viene fatta la propaganda in Francia. Per presentarlo a Nizza. Io insomma conosco i compagni francesi, ora perché noi si può fare insomma relativamente poco, insomma, no? E va bene, perché viene lui. Era un conferenziere in gamba, adesso il nome me la ricordo. Sicché arriviamo a Nizza e lo presento, che era un po' intelligente, è morto anche noi tanto adesso, di cancro. La Tessier, che stava al Golfo Juan, adesso abitava, no? Era una donna, se un difetto è essere donna, del resto era intelligente, colta e adatto per un movimento anarco, anche finanziariamente. E finché lo presento a questa compagna, la Tessier, era una di Lione, di Dolone. E allora, cosa bisogna fare? Bisognerebbe trovare un locale per fare delle conferenze, per dire cosa sono i partiti e quelli che glielo ho detto dei compagni spagnoli, ora un po' di amico, quando ho detto, vedete, quando venivano i francesi o degli altri di commissione, vedete, sapete cosa vengono a fare? Sì? A vedere come avete piantato il coltello nel vente putrefatto del privilegio della borghesia, ma quelli quando sono di là sono contro noi. Sicché andiamo questa Tessier di compagni francesi, allora c'era stato il fronte popolare, no? Sì. 36. Ora avevano accaparato tutti i teatri, il cinema e via di seguito, i posti dove si poteva fare delle conferenze, dei comizi e via di seguito. Una faccia lunga nemmeno qui. Beh, non siamo, non me, io uno straniero, potevo andare in compagnia. E in tutto il tempo non siamo stati capaci di trovare una sala per parlare. Allora, per dire, E allora, perché abbiamo fatto il fronte, così detto, parlamentare, insomma, radicali, socialisti e bolscevichi. Allora, se andava dai comunisti, bolscevichi, dico, troveremo quella sala lì, non può pompare, ma le radico, fin dalle radico, non c'erano i socialisti, fin dai socialisti, non c'erano i bolscevichi. Beh, siamo stati lì, 15, una quindicina di giorni, poi abbiamo lasciato, non si è trovato un posto da andare a fare una conferenza. In un caffè vicino alla Gran Gara a Nizza avrà contenuto pigiati come le sardine in un caratello, in un caffè, una vetrobottega, saremmo stati 150, ma pigiati, pigiati. E allora questo gli disse, quando avete fatto la rivoluzione francese, il mondo non ha fatto come fate voi adesso. Siete stati aiutati, ci sono morti. Quando non è più il mondo, io ricordo, e questo me la ricordo anche io, quando hanno ucciso Francisco Ferrer, lo sciopero si è esteso dalla Catalogna a tutta la Spagna, al Portogallo, qui, negli scioperi così grandi non mi fa, e a Faina la volta. Quando non c'era il sindacato che erano lo stato scheletrico, quando hanno ucciso Francisco Ferrer, la prima volta mi hanno arrestato, mi hanno rilasciato subito. Quindi aiuta le cave, no? E loro erano un gruppo, saremmo stati 10 o 12, so, 15. E lì al Gigante a Carrara, no? C'era un posto di polizia, e cos'è? C'è sciopero. Allora venite con, ci convogliarono là. E come mai? Chi ve l'ha detto? So? E c'è sciopero. Ci rilasciarono. Ebbene, da tutte a Carrara ci fu lo sciopero generale, a massa, via Reggio. Adesso ammazzano. C'era i bambini del Biafra che ne morì a 6.000. Ma chi si può? Nemmeno questo. Ma Carrara, quando ho l'occasione glielo dico. Ma questa organizzazione, come non avevate la possibilità di fare un commigio per quel farabutto di Milano, quest'ore guida che era 28enne, che quando c'ero io, che adesso ha assassinato il compagno Pinelli. E voi non avete fatto nemmeno un commigio. Lì, cosa fa? È un commigio. Il caso Pinelli, il caso non so, degli arresti, il caso che di concreto non c'è nulla, sono tutte imposture della polizia, vaghe. Anche un giorno mi domandarono giù, dice, ma Valpreda non è anarchico, uno fa parte. Dico, ma della federazione non faccio parte nemmeno io. Allora, perché non faccio parte della federazione? Non sono anarchico. Valpreda può essere in delle condizioni, sono io. Ce ne sono tanti di quei gruppi che non fa parte di. Ora, Valpreda può essere stato un chiacchierone, come ho trovato tanti. Ora, questo, però, pigliare un taxi per fare 100 metri quando lui fa il ballerino, si era allenato e aveva l'ingaggio in Sardegna, credo che 100 metri li potesse fare largamente. Poi va a pigliare il taxi, poi dispettatemi qui, e dopo rimonto qui sopra, è un'idiozia quella, non so la polizia come ha fatto a fare quelle di pienigione, quel shock e così. Senta, volevo chiedere, i minatori in che categoria, oddio, i cavatori in che categoria sono? Ma sono presso a poco la categoria dei muratori, forse hanno qualche cosa di più. Ma non sono né chimici, no, né no, minatori? No, no, no, no. Sono cavatori. Cavatori. Cavatori. Il sindacato. Sì, cavatori, e una volta si chiamavano dissatori, quelli che scalavano in mare. Ma adesso la marmifera c'è, come si dice, hanno fatto tutte strade, adesso ci vuole il camion a caricare. Ma no, una volta c'erano le compagnie che ricalavano giù con delle gorge, no? Sì, la lista si chiama. Li scalavano, c'erano tre. Senta, canapi. Ci sono delle canzoni particolari proprie dei cavatori, dei iniziatori, dei minatori? Io non credo, no. Io non credo. No. Almeno a mia conoscenza. Noi, chi è da queste parti qui? Sempre diventato tutti quelli in anarchici. Ah, no? Solo quelli in anarchici. Sì. Quando lavoravate? Quando eravamo alla cava, no? La cava, allora tutti quelli in anarchici lì, come dallo sguardo lì, l'ho sentito quando, da un fiorentino. Avevo fatto tardi, di sera a Carrara, era di sabato, no? E adesso, ma una volta a Carrara c'era una malattia grave, c'era la gente, insomma, il capo andava a denaro, poi si ritrastullava in tasca, andava nel bar della cantina, era capace di stare 2 o 3 ore, no? Se si pigliava i denari, non so, dopo 3 o 4 ore lì, dopo si ne accala tardi. E lì ha contribuito molto meglio, ha detto no, gli operai li pagate subito. Perché lì si capisce questi capocci, questi dando una catena, li fanno stare lì 3 o 4 ore. E delle volte c'era degli operai, doveva rindare via la domenica mattina la moglie, un fratello o lui a rindare a Carrara. Senta, in questa zona qui i contadini fanno ancora il maggio, cantano il no, maggio? No, non più. Una volta si cantava. Sì, da quando ero ragazzo io sì. Com'era? Come si faceva? Erano tutte quartine, no? Messe, poi c'era la Sestina e tu in poesia, no? Sì, sì. Com'era? E io, insomma, ho avuto passione, però lo sentivo cantare. L'hanno portato in Cambiareggio in un teatro. Per me mi pareva una cosa coppa, no? Ma c'era chi lo faceva qui, sì. Adesso non saprei se ci sono ancora i documenti come si faceva al maggio, no? C'è, io conosco uno che il suo padre lo faceva, c'erano un paio così qui. C'era un socialista che faceva il maggio, si chiamava Grillotti, che è morto, sta spaventato dai fascisti. Era un uomo di poco coraggio, no? I fascisti andarono là con la bandiera. Lui si spaventò, lo mandò al manicomio. Non era mica vecchio, non era 60 anni, morì al manicomio. E poi gli hanno ammazzato un figlio a Genova. Non di partigiani, in Genova. Io ho voluto bene a delle donne anch'io. Ma quando ero a latitante, non gli ho mai detto quando li andavo a trovare. Mai. Perché lo so, questa dopo è un'altra amica. Stasera viene tizio, quell'altra amica, così, e beh, non gli ho mai detto quando ci andavo. Allora, tum, tum, chi è? Qui localmente sono conosciuto come Beppe della Maria, in dialetto, che vorrebbe dire Beppe della Marianna. Ah, Beppe della Marianna. Vorrebbe dire Beppe della Marianna. E poi stavo lì, chi è? Beppe della Marianna, o del resto Beppe della Marianna. Come... perché Raffaele ce ne ha molti, andavo là, stai qui, là, insomma, vorrei cambiare il giorno, no? Un occorre. E perché sto qui un po', stavo 2 o 3 ore, poi ogni volta di venire l'acqua così. Ero su, sui monti là, mi andavo a dormire con le gabbre. Le gabbre non fanno mica la spia. Capre. E questo qui che te ho detto poc'anzi, erano i partigiani a Genova, va a casa a trovare la moglie, sta in casa, manda una certora, con la parola dell'ordine dei partigiani, apre la porta, 4 o 5 camicie nere, portano via, l'hanno ammazzato. Ora voglio dire, in genere io era stato qualche tempo che so di qui, era un ragazzo, non era, insomma, anche un po' di... ma c'è di quelli che hanno l'ingenuità in natura, voglio dire, c'è della gente con meno cultura, vedono più caro, più largo, ad esempio un altro caso, ora non perché io gliel'abbia detto, no, ma Berneri a restare lì dove l'hanno ucciso. Io non ci sarei stato, non ci sarei mica stato, perché lì c'era la strada avvenida, di là c'era la Federazione Anarchica Iberica, c'era solamente una strada, e di qui c'era una casa che erano dentro lui, la Tosca, quell'altro Barbieri, tre o quattro, una casa isolata, e lì c'era un posto di polizia bolscevico. Ora era prigione, facendo le fucilate, ma io sto lì in tre o quattro senza, io me ne sarei andato, vediamoci bene. Ora io non perché voglio mica dir male di Bernieri, nemmeno per ombra, io ero amico, era un bravo uomo, e se non era un bravo uomo non veniva lassù, stava lì un giorno, poi andava giù, insomma. Ora io non ci sarei stato, è stato lì, ci va la polizia bolscevica, dice: cosa c'è, noi siamo degli anarchici, no. Cominciano a guardare, lui scriveva un libro, no, proprio sugli intrighi del Partito Comunista nella guerra, via dicendo. Un poliziotto gli dice al commissario, non c'era mica, me l'hanno raccontata, no, chi c'era, gli dice: a chi, molto interessante, molto, molto. Allora, piglia questo materiale, un documento a due, fanno via, erano tre o quattro. Andate via, rivengano dopo un'ora, un'ora e mezzo, una ventina, l'hanno portati via. Bernieri l'hanno trovato per la rambla con un mucchio di pistoletta della destra, che la sua moglie l'ha riconosciuto, i calzini, e Barbieri lo stesso, le donne l'hanno lasciate, la Fosca e quell'altra lì, che sarebbe stata la moglie di uno che è morto su a Huesca, quando sono rimasto ferito io, un bolognese, sarà stato due metri e mezzo, una volta si è andato alle mani nel Belgio con dei fascisti, ne ha sbarazzato una ventina, povera, aveva preso 4-5 pallottole tutte qui. E allora la dove io mi portarono giù, ma facciamo fatto tutto il tragitto, no? da Huesca, già di notte, poi con fumo, come si chiama quella, è ridicolo, sa, il prete, la perpetua, e la cantavano, questi danno un motivo così molto semplice, e un prete lo chiamavano Don Poncino, quell'altro mezzo litro, e che è morto, non mica tanto, era stato al domicilio coatto con mala testa, era di lì, ma si chiamava Apolloni. E non c'è più adesso? No, è morto sarà 5-6 anni, o 7-8 anni fa. E lo andai a trovare, no? E non avevo sentito parlare. E dice: oh Raffaele, più che mi dispiacerebbe, ho sempre combattuto i preti, e quando sono morto mi porterebbero le mie proteggere, mi resterebbe. E dice: queste donnette qui, dire le mie figlie, sono capace di fare anche quel lavoro. E me lo mandarono a dire, ma non mi fecero ambasciata, lo disse era un comunista, adesso ci sono andato, avrebbe detto quattro parole lì, e invece, perché era stato un uomo sempre dritto, era stato. Lui faceva la buffonata. Faceva la buffonata. Che adesso non c'è più nessuno che la fa. No. Faceva. In che periodo la faceva? E la faceva quando ero ragazzo, io avrò avuto. E l'ho sentita, la cantavano. Durante questa. Carnevale o in tutto l'anno? Piuttosto nella stagione buona, nella primavera, così. E la facevano, perché la facevano all'aperto, non potevano mica andare a fare il tabrei in una sala che richiedeva. Allora la facevano all'aperto, no? Lo facevano giù, chiamato le capanne, che anticamente c'erano capanne, no? Giù. E perché Montignoso, la gente c'era tirata un po' in su, perché giù c'era la malaria. Le cataratte qua giù, c'è stato un periodo a Montignoso, c'era 1600 abitanti, c'erano 800 ammalati di malaria. E chi ha fatto mettere quelle case a rette lì, che c'è laggiù dove quelle case si vede? Quelle case bianche laggiù, si chiama il Cinquale, no? Di là dal campo, da là dal campo d'aviazione. C'è le caderate. E l'ha fatto mettere la sorella di Napoleone, Elisa Baggiocchi, che l'aveva fatta signora, tanto per dire che era per la rivoluzione lui, no? L'aveva fatta signora di Montignoso, di Lucca e di Piombino, e il console della rivoluzione francese, che dopo si autoproclamò imperatore dei francesi. E allora qua giù lì ci chiamano le capanne, perché anticamente le gente abitavano su e laggiù ci tenevano le bestie, no? C'erano le bestie, le mucche, le pecore, so che capivano. Allora ci chiamavano capanne, invece adesso è la frazione più numerosa, perché dopo che è sparito un po' la malaria e che si hanno adesso è l'agglomerazione più numerosa di Montignoso, e ci chiamano anche adesso alle capanne. E lì subito dietro la ferrovia, no? La ferrovia lì, l'agglomerazione laggiù è la più numerosa, perché Montignoso è capanne, quella frazione in mezzo lì si chiama Prato, e questa è chiamata piazza, c'era una piazza, c'era il municipio e via così, no? E a Montignoso è stato delle persone abbastanza illustri, ora non hanno lasciato granché. È stato Giorgini, che era il genero del Manzoni, no? E c'era la figlia che riderà un po' su. Lui era un latinista in gamba, che qua giù veniva sovente, veniva, insomma. Veniva il Giusti, Peppe Giusti, no? Per fare.